Radio 24 Reportage. Hammamet di Daniele Biacchessi. 100 giorni. Hammamet è un punto della cartina geografica del Nord Africa, uno splendido complesso residenziale Villa Julien, posto in uno dei luoghi più belli della Tunisia, diventa l'ultimo rifugio di Bettino Craxi, il capolinea della vita di un latitante lasciato solo da tutti tranne che dai pochi fedelissimi, lui che era stato uno degli uomini più potenti ed influenti della Prima Repubblica. I denari per la politica sono come le armi per la guerra. Mi spiace deludere qualcuno, ma la democrazia ha un costo. Entrano nel mio ufficio, frugano nei registri, cercano prove. Finanziamenti illeciti, chi l'ha mai negato? Ma non tutto serviva per l'apparato. Ma qualcosa ci restava da... E voi che lo candidate? Un giudice che vi poteva inquisire e non l'ha fatto. Io non parlerò mai. Saranno altri a farlo, tanti altri. Perché per te questa vita è un giro tondo che abbraccia tutto il mondo, lo so. Ed invece la corsa della vita per me... Ma in Italia le cose stanno cambiando, il peggio alle spalle. Alle spalle di chi? Gli ultimi sei mesi della sua storia, con straordinari successi politici e tonfi giudiziari clamorosi, diventano il punto nodale dell'ultimo film di Gianni Amelio, interpretato in modo sublime da Pierfrancesco Favino. La pellicola, ben strutturata sul piano della sceneggiatura, delle riprese, della fotografia, si basa su testimonianze reali, ma non è una cronaca fedele degli ultimi mesi nella vita di Bettino Craxi. Neppure possiamo considerarlo un pamphlet militante. Non può essere tutto questo, perché il corso del leader socialista divide ancora oggi il nostro paese sul piano umano, politico e giudiziario. Il film esce nel ventennale della morte di Craxi, avvenuta appunto ad Hammamet il 19 gennaio 2000, e nei giorni in cui si celebrano da più parti riabilitazioni della sua figura. In molti chiedono ad esempio di ristabilire la verità. Lo fa da anni la figlia Stefania Craxi, lo fanno altri anche per ragioni politiche o speculative, ma le verità che emergono anche nel film sono essenzialmente tre: politica, giudiziaria, umana. Tutto si mischia e alla fine resta soltanto la solitudine di un uomo tanto potente quanto fragile. La verità politica riguarda un uomo che voleva rendere nuovo il socialismo, traghettandolo dal pensiero primordiale dei padri fondativi degli inizi del Novecento al modernismo, passando per l'autonomismo di Pietro Nenni. Il sogno di creare un partito socialista forte, autonomo dall'egemonia del Partito Comunista Italiano. E per compiere questo passaggio Craxi si prepara alla presa del potere all'interno del suo partito, mettendo in minoranza la vecchia guardia di De Martino, diventando così segretario nel 1976 con la svolta dell'Hotel Midas di Roma. La rivalità con il PC porta Craxi a schierarsi contro il compromesso storico per accreditare il PSI come unico alleato possibile della Democrazia Cristiana, un progetto che prosegue in tutta l'era craxiana tra la fine dei 70 e gli 80 fino al congresso dell'Ansaldo di Milano, quello della piramide di Panseca, al CAF e agli ultimi governi Andreotti e alle prime indagini del Pulmani Pulite. Poi c'è la verità giudiziaria che porta Craxi dalla presidenza del Consiglio del 21 luglio 1983 alla morte del 19 gennaio 2000 ad Hammamet. In mezzo ci sono 17 anni costellati nella sostanza da una spartizione sul piano politico, economico, finanziario, soprattutto corruttivo. La politica costa, è un'ascesa al potere come quella di Craxi, così veloce ed imponente, ha bisogno di essere alimentata da molto, molto denaro. E come sostiene uno dei protagonisti del film, di Gianni Amelio, a furia di manovrare denaro, spesso si attacca qualcosa alle mani. Io non ho negato la realtà, non ho minimizzato, non ho sottovalutato il significato morale, politico, istituzionale della questione che veniva clamorosamente alla luce e riguardante il finanziamento irregolare ed illegale ai partiti e dalle attività politiche, ed anche il vasto intreccio degenerativo che adesso si collegava o poteva, anche a nostra insaputa, essersi collegato. Osservavo nel luglio del 92. C'è un problema di moralizzazione della vita pubblica che deve essere affrontato con serietà e con rigore, senza infingimenti, ipocrisie, ingiustizie, processi sommari e grida spagnolesche. La difesa di Craxi nelle aule parlamentari e poi in tribunale rimane univoca fino alla fine. Così funzionava il sistema, così facevano tutti, il finanziamento illegale della politica. Ma si tratta di fatti, sosteneva Craxi, estranei alla sua responsabilità personale e penale. Infondate e che si riferiscono a fatti ed episodi del tutto estranei e lontani dalla mia responsabilità personale e penale. Ma la verità giudiziaria è incontrovertibile. Craxi è stato condannato con sentenza passata in giudicato a 5 anni e 6 mesi per corruzione nel processo Enisai, 4 anni e 6 mesi per finanziamento illecito per le tangenti della metropolitana milanese, inoltre 5 anni e 5 mesi in primo grado per tangenti Enel, 3 anni in appello bis per il caso Enimont il 1 ottobre del 99, rinvio a giudizio per i fondi neri di Montedison e di Eni, reato prescritto per Oliveri, annullamento di reato con rinvio per il conto protezione, assoluzione per le tangenti intermedie e per i lavori della metropolitana di Lima in Perù. Nei tribunali Craxi continua a portare la sua versione. Il sistema illecito di finanziamento della politica, dice, risale agli albori della vita repubblicana del nostro paese. In Italia il sistema di finanziamento ai partiti e alle attività politiche in generale contiene delle irregolarità e delle illegalità, io credo, a partire dall'inizio della storia repubblicana. Per questo Craxi si rifugia in Tunisia, che non riconosce trattati extragiudiziali con l'Italia, ed è qui che consuma gli ultimi mesi, afflitto dalle conseguenze del diabete, di un tumore e sostanzialmente solo. E proprio in Tunisia, il 16 gennaio 2000, Craxi rilascia la sua ultima intervista in TV a Roberto Vallini. In quelle ore offrirà anche le sue ultime parole nel libro intervista di Marco Dolcetti. 3 giorni dopo morirà ad Hammamet. Di giustizia in piazza nel corso di questi anni ne hanno fatta tanta, diciamo le cose come sono. Invece su questo caso di giustizia politica, di giustizia a due pesi e a due misure, questa è la sensazione. Di giustizia cieca ad un occhio, ne abbiamo vista tanta nel nostro paese, ma questo è un altro capitolo tutto sommato che meriterà anch'esso di essere riscritto. E in questo capitolo però anche il sistema, in queste forme, anche il sistema dei media è stato complice, evidentemente. E come no. Non ci sarebbe stata in Italia una sorta di falsa rivoluzione se non ci fosse stato questo collegamento tra clan giudiziari e clan dell'informazione, che si sono mossi convergendo verso dei fondamentali obiettivi che erano di carattere politico. Lei poco fa parlare. Io lo dico perché io sono stato uno dei principali di questi obiettivi. Lei, parlando di un argomento più leggero, calcio, ha detto prima festa, farina e forca è quello che vorrebbero fare, ma io penso che non ci riusciranno, perché alla fine le feste passeranno, la farina mancherà e la forca provocherà della ribellione. Come peraltro sta già anche. Come già sta avvenendo. Come dicono a Milano, la roda la gira. 100 giorni. Il film va visto perché narra un pezzo di storia ancora attuale che l'Italia tende molto spesso a dimenticare, gli anni di Mani Pulite, la fine di una classe politica. E poi perché il regista Gianni Amelio non ha voluto costruire un santino di Craxi, neppure una pellicola faziosa. Non è il racconto della vita di un politico all'apice del suo potere, ma la parabola di un uomo sconfitto dalla storia. Nella sostanza Bettino Craxi in Hammamet è un uomo anziano, malato di rabbia, di solitudine, ossessionato da un sentimento di rivalsa che sfoga aprendo in continuazione il frigorifero. Mio nonno disse agli americani no, dice ad un visitatore in una scena del film Nipote di Bettino, riferendosi alla vicenda di Sigonella, mentre sta giocando sulla spiaggia con un piccolo aereo e i soldatini di piombo. E gli americani se la fecero sotto. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.